espressione. Ma che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Quando uno c'ha paura, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato. Ma a me non mi sta migliorando. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me está dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón, dime tú por qué tanto yo también, cuando tú me Buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e tutti. Dunque oggi è mercoledì, come tutti i mercoledì 15 dicembre, e in apertura vogliamo dare intanto un saluto alle compagne e compagni che da poche ore hanno varcato la soglia del carcere. Sono state le compagne e compagni arrestati durante le manifestazioni di ieri e sappiamo che hanno passato la prima notte dentro le celle della questura e poi in tarda mattinata intorno all'ora di pranzo sono stati portati al carcere di Regina Coeli. Non sappiamo se gli arriva la voce, però sicuramente Radio Carcere può fare probabilmente staranno in isolamento giudiziario, ma Radio Carcere può fare di questi miracoli, e quindi speriamo che arrivi a loro il saluto di Radio Onda Rossa, l'augurio di riacquistare al più presto la libertà, la consapevolezza che tutta la città, tutto il movimento, la parte viva di questa città si sta mobilitando per fargli ritrovare la libertà al più presto. Un'altra informazione appunto sugli arrestati di ieri, sono stati portati a Regina Coeli oggi, il processo slitterà a dopodomani, il processo per direttissima che in primo tempo era stato fissato per domani, slitterà a dopodomani perché il procuratore ha chiesto tempo per valutare la posizione di ciascuno. E dunque, queste le notizie se le sapremo su questi arresti, chiaramente le daremo in continuazione, ma finora la situazione è questa. Quindi la data del processo confermata dagli avvocati è per dopodomani, e il trasferimento a Regina Coeli anch'esso è avvenuto, e quindi di altro non si sa, perlomeno di questioni. Speriamo che appunto siano tutti in buona salute, anche se certi pestaggi sappiamo sono avvenuti per tutti quelli, tutte quelle fermate. E dunque, questa è la prima notizia. Purtroppo continuiamo a segnalare situazioni allarmanti, se qualcuno si allarmasse. Non ci riferiamo alle istituzioni, che non si allarmeranno mai perché le creano loro queste situazioni, ma sicuramente alla realtà sociale. Dunque, si muore troppo presto, troppo spesso nelle celle delle questure, nelle celle di sicurezza delle questure o delle caserme dei carabinieri, e in ordine di tempo l'ultima morte, di cui si è saputo qualche giorno dopo, e per fortuna si è saputo, è di un ragazzo senegalese morto nelle celle di sicurezza della caserma dei carabinieri Masotti a Brescia, stroncato da una crisi respiratoria. Questo è il referto medico, quindi i medici hanno detto che lui si chiamava Saidou Gadiaga, Eldi, chiamato Eldi dagli amici. 34 anni aveva, soffriva di una grave forma d'asma ed era stata questa la prima cosa che lui ha comunicato ai carabinieri al momento dell'arresto, quando l'hanno portato in caserma, e ha detto che soffriva d'asma. Sapete che le crisi d'asma sono estremamente pericolose, è una di quelle malattie per il quale è necessario un monitoraggio continuo. Il giorno dopo in città, dice qui, stiamo leggendo dal Manifesto che ha messo questa notizia ieri, il giorno dopo in città si sarebbe svolto un corteo antirazzista contro la sanatoria Truffa, quella che è costretto per denunciarne la truffa, quegli immigrati sulla gru dove sono stati per diversi giorni. Dopo l'arresto, Saidou viene portato in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima, e poi probabilmente sarebbe stata l'espulsione. In tasca ha un flaconcino spray antispasmatico, che quando prendono le crisi di asma appunto si spreme in bocca questo spray, che ovviamente è un presidio medico, e anche appunto un certificato che attesta la sua malattia di sofferente di crisi d'asma. Più di una volta, racconta uno dei tre ragazzi immigrati fermati nelle stesse ore con lui e poi trattenuti insieme a lui, forse a causa dell'aria viziata della cella, la respirazione di Saidou si fa corta, si fa sempre più affannosa. Viene tenuto lì dentro lo stesso per due notti, dentro le celle di sicurezza, nonostante avesse spiegato che il suo stato di salute non fosse compatibile con la detenzione. Domenica mattina, verso le 7, le sue condizioni peggiorano drasticamente. Finalmente qualcuno si decide di chiedere l'intervento dei medici, ma ormai è troppo tardi. Ancora una breve disperata corsa verso l'ospedale, dove però i medici non possono fare altro che constatarne la morte avvenuta prima delle 9. E quindi adesso ci sarà l'autopsia, però insomma la realtà è abbastanza chiara. Soffriva d'asma, l'ha comunicato ai carabinieri. Nelle celle di sicurezza in realtà sappiamo come vengono trattate, non è la prima volta che succede, speriamo che sia l'ultima, ma non è che la speranza appunto deve trovare le gambe per marciare, altrimenti diventa stupidità, e quindi appunto bisogna mettersi in moto per evitare che questo succeda. Brescia ovviamente ha protestato, la comunità senegalese di Brescia ha discusso quanto era avvenuto, si sta muovendo tutta la situazione. In bresciano ci stanno numerose associazioni, diciamo che stanno dalla parte degli immigrati e degli immigrati, e quindi stanno muovendo la situazione. Però insomma, questo è il dramma, non solo fermare la gente così per poi spellerla, come spesso stanno in Italia da parecchio tempo e lavorano da parecchio tempo, ma addirittura buttati appunto in una segreta senza nemmeno il rispetto per la loro salute. Questo avviene nell'Italia democratica. Sentiamo però adesso il comunicato della, sempre della morte di Eli. E dunque andiamo a leggere il comunicato di un'associazione che appunto è l'associazione Diritti per Tutti, che appunto sta seguendo il caso con attenzione, anche perché cercano di capire appunto cosa sia successo poi all'interno di questa caserma, perché poi sia avvenuto il suo decesso poi all'ospedale. E tra l'altro premetto che se andate sul sito di Radio Onda d'Urto potete trovare proprio anche, c'è un audio con il resoconto di quanto si suppone o di quanto comunque è accaduto. E appunto questa associazione Diritti per Tutti ha fatto appunto questo comunicato. Dice: Brescia, domenica 12 dicembre. Attorno alle 8.45 del mattino presso l'ospedale civile viene constatato il decesso di Eldisei Yugadiaga, 36 anni, cittadino del Senegal, in Italia da circa 15 anni. In ospedale era arrivato da poco. Da venerdì pomeriggio Eldi era trattenuto presso la caserma dei carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato. In base alla legge Bossi-Fini e al pacchetto sicurezza del 2009, si trovava in stato d'arresto soltanto perché era stato trovato privo dei documenti per il soggiorno regolare in Italia e mesi fa era stato colpito da un provvedimento di espulsione per immigrazione clandestina. Come previsto dalla legge, Eldi non aveva più il permesso di soggiorno che ha avuto per molti anni perché aveva perso il lavoro. È il solito cane che si mangia la coda. Sono in corso di accertamenti da parte della magistratura sulle cause del decesso di Eldi, che secondo la versione dei carabinieri ha avuto, come ti sbagli, sempre hanno dei malori improvvisi e inspiegabili. L'associazione Diritti per Tutti sta seguendo il caso con la massima attenzione. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie a capire che cosa sia successo all'interno della caserma dei carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato. Non desisteremo finché tutto non sarà chiarito. Certo è già ora che Eldi in quella caserma è entrato vivo e ne è uscito morente, o forse addirittura già morto, dopo poco più di 24 ore. Certo è che i carabinieri non potevano non sapere che Eldi soffriva di una forma d'asma cronica, per la quale portava sempre con sé, oltre ad un'apposita bomboletta, anche la necessaria documentazione medica. Certo è che Eldi è stato condotto in quella caserma grazie all'applicazione della legge Bossi-Fini e del pacchetto sicurezza, chiamiamolo sicurezza, che trasforma in colpevoli di reato gli immigrati irregolari. Certo è che nella giornata e nella serata di venerdì 10 dicembre, guarda caso alla vigilia della manifestazione dei migranti per i permessi di soggiorno del giorno successivo, le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, hanno intensificato nelle strade le massicce azioni di controllo dei documenti, che soprattutto da novembre, per rappresaglia contro la battaglia della GRU per la regolarizzazione, hanno reso Brescia città blindata dalla polizia, territorio di caccia aperta agli immigrati cosiddetti clandestini e non solo, un vero laboratorio dell'autoritarismo padano e del razzismo, voluto direttamente da Maroni. Eldi è incappato in questi controlli, come del resto anche Lai, giovane immigrato senegalese molto conosciuto fra i partecipanti alla lotta per la regolarizzazione. Entrambi, venerdì 10 dicembre, sono stati condotti nelle caserme dei carabinieri. Lai ne è uscito soltanto sabato pomeriggio. Eldi non ne è più uscito, se non per un'ormai tardiva corsa verso l'ospedale. Vogliamo sapere. Perché quel che già sappiamo è inquietante, oltre che doloroso, soprattutto per i familiari e gli amici di Eldisei Yugadiaga. Le testimonianze che abbiamo raccolto, soprattutto tra le persone più vicine a Eldi, avvalorano e rendono meritevole di accertamenti molto approfonditi l'ipotesi che si tratti di un caso di grave omissione di soccorso. tanto più inammissibile perché ad esserne responsabili sarebbero i carabinieri che avevano in custodia Eldi. Come al solito, quando si è in custodia dello Stato c'è sempre da aver paura. E dunque lo tenevano in custodia dopo averlo arrestato e trattenuto per più di 24 ore in una cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di Piazza Brusato. Stefano Cucchi, Aldrovandi, Gabriele Sandri, Aldo Bianzini, Carlo Giuliani, eccetera, eccetera. Omicidi di Stato. Impossibile non domandarsi chi sarà il prossimo. Non siamo affatto sicuri che la risposta non sia già arrivata, che non venga da Brescia e che non abbia il nome di un uomo senegalese di 36 anni. E questo era il comunicato dell'Associazione Diritti per Tutti, e comunque rimando appunto a Radio Onda d'Urto, dove potete sentire l'audio. Eccoci, pronto, ci senti? Benissimo. Dunque, siamo in diretta, siamo al telefono con Vittorio Antonini della Biblioteca Papillon, spesso è stato nostro interlocutore, ne parliamo spesso dei problemi del carcere. Stavolta però il problema è sempre riferito al carcere, però riguarda la biblioteca. Dunque, la biblioteca, facci intanto una brevissima storia della Biblioteca Papillon, che nasce prima in carcere e poi si trasferisce in un quartiere di Roma, a Ponte di Nona. Dai. Sì, proprio l'associazione nasce nel 96 creando una biblioteca dentro Rebibbia Nuovo Complesso, con 3.500 libri, una grande biblioteca, e poi riorganizzando un po' le biblioteche dei vari reparti. Dopo 10 anni abbiamo provato un esperimento, cioè creare all'esterno, in una zona periferica di Roma, dove la cultura arriva con il contagocce. Una zona degradata, diciamo, una zona molto degradata. Diciamo. A creare, come dire, un punto di riferimento, un centro di iniziativa culturale che ruotasse intorno ad una vera e propria biblioteca. Abbiamo raccolto oltre 15.000 libri da cittadini, non ne abbiamo comprato neanche uno, forse una trentina, ma tutto il resto sono tutto frutto di donazioni, di selezioni, li abbiamo catalogati con i sistemi che si utilizzano nella maggioranza delle biblioteche. Siamo riusciti ad inserirla dentro il polo bibliotecario dell'Università La Sapienza di Roma, e quindi un cittadino, voglio dire, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia può vedere il nostro catalogo. Ormai abbiamo raggiunto 7.200 libri, e così abbiamo provato questo esperimento. Purtroppo però, come tutti gli esperimenti, soprattutto se si fanno nelle periferie urbane, insomma, non ricevono una grande attenzione dalle istituzioni, e così è stato. Sia con il centrodestra sia con il centrosinistra è stato praticamente uguale. E quindi adesso vi trovate in condizioni, diciamo, drammatiche, più o sì, meno. Noi il 19 novembre abbiamo dovuto chiudere. Ci ha aiutato gli ultimi 4 mesi un assessorato della provincia di Roma, che appunto ci ha permesso di incrementare il patrimonio librario da 5.000 fino a 7.000 libri, ma dal 19 novembre abbiamo dovuto chiudere al pubblico, perché è praticamente impossibile. Siamo proprio con debiti da tutte le parti, abbiamo 8.300 euro di affitto arretrato, il gas altri 800, insomma una marea di cose che ci rendono impossibile poter svolgere le attività normali, insomma, che vanno svolte. Poi questa è una biblioteca particolare, perché noi nel periodo da marzo fino a settembre abbiamo un grande giardino, quindi ci facciamo cinema all'aperto, iniziative teatrali, giochi per i bambini, insomma, è un centro di promozione culturale vero e proprio. E questa cosa qui ormai è impossibile proprio portarla avanti, e quindi abbiamo lanciato un appello. Questo appello è un appello, come dire, di adesione, di solidarietà, ma anche di sottoscrizioni. I primi a rispondere sono stati alcuni nomi importanti della cultura italiana, da Eri De Luca, Dario Fo, Franca Rame e tanti altri. E stiamo proseguendo questa campagna perché pensiamo che in un qualche modo, come dire, l'intervento di ognuno, anche con pochi euro, però ci potrà permettere di almeno tentare di salvarla, ecco, almeno tentare di salvarla. Senti, allora, se gli ascoltatori e le ascoltatrici volessero dare una mano, dagli le indicazioni, che debbono fare? Beh, adesso qui è chiaro che dare gli estremi bancari, postali, eccetera, è un po' difficile. Chi può andare, ecco, sul profilo Facebook dell'Associazione Papillon Re Bibbia, Associazione Papillon Re Bibbia, e lì trova tutti i riferimenti, sia bancari sia postali, postpay, insomma tutte le cose più semplici, dove veramente chi vuole può donare da pochi euro fino a quanto più possibile. E ovviamente è una scommessa, ragazzi, perché non è detto che ci si riesce. Certo. Non è detto che ci si riesce. Un'istituzione culturale come una biblioteca può riuscire a sopravvivere soltanto se si crea una forma di pressione tale per cui ad un certo punto le istituzioni locali, quelle che dovrebbero normalmente occuparsi proprio della diffusione della cultura, soprattutto in periferia, decidono di mettersi una mano sul cuore e soprattutto una mano sul portafoglio, e invece di magari finanziare, come dire, i loro comitati elettorali permanenti che hanno un po' in giro per tutti i quartieri, finanzino qualcosa di socialmente utile e di culturalmente valido. Va bene, Vittorio, e allora niente, ma non avete anche il sito Papillon? Avevamo il sito, ma non avevamo più i soldi per gestirlo, ma neanche per pagare l'affitto lì dove è appoggiato il sito proprio, certo, dal punto di vista elettronico, e quindi praticamente è, come dire, è morto. Se tu digiti papillonrebibbia.org non c'è più il sito, quindi fino a quando non pagheremo gli arretrati, e anche lì sono altre centinaia di euro di arretrati, praticamente, insomma, ragazzi, noi abbiamo dovuto fare una scelta: o proseguivamo o pagavamo tutte queste cose. Quindi i debiti si sono accumulati, ma prima o poi si arriva al punto finale, e così è stato. Abbiamo tentato questo esperimento, guarda, non è detto che che ci si riesca, lo ripeto, non è detto che ci si riesca. Perché? Perché appunto è una scommessa difficile, per chiunque si occupa di attività socioculturali in periferia lo sa, è una scommessa difficile, difficilissima. E quindi proprio per questo l'appello che lanciamo è un appello sia alla sottoscrizione ma anche in un qualche modo a creare forme di pressione sulle istituzioni locali. Non ci facciamo molto conto, pur continuando a lanciarlo, ma dobbiamo assolutamente, insomma, tentare fino alla fine, dopodiché le battaglie si perdono pure, ragazzi. Certo, certo. Vabbè, poi ci si riprendono da capo. Comunque adesso questa è in piena battaglia, ancora non è persa, quindi con l'aiuto di tutte e tutti. Le adesioni che riceviamo, Salvatore, sono significative, sono importanti, ma vanno, io dico i nomi importanti perché tutti li conoscono. È chiaro che quando uno dice Dario Fo e Franca Rame sono due monumenti proprio, diciamo, della cultura in Italia, Eri De Luca, insomma, e tanti altri, e anche giuristi, insomma, Ferraioli, Santoro, eccetera, ma anche tanta semplice persone. Ci piace ricordare a Onda Rossa, per esempio, Irma e Luciano. Luciano è un compagno di 80 anni. Che ci mette quello che può, no? Certo, infatti. E per noi è tanto. Va bene, allora niente, vi facciamo gli auguri, poi casomai prenderemo queste coordinate bancarie per fare questa sottoscrizione, proveremo a metterle anche su Facebook, digitate Associazione Babilare Bibbia, troverete tutti quanti i riferimenti. Perfetto, d'accordo. Grazie. Vittorio, in bocca al lupo per la vostra lotta e speriamo bene. Dai. Grazie. Ciao. Ringraziare i redattori di Scarceranda per una notizia appunto che ci hanno sottolineato. C'è stato il 2 e il 3 dicembre un convegno Architettura versus Edilizia, dice quali spazi per la pena secondo la Costituzione. E dunque, e questo, se voi andate sul sito di Radio Radicale, calma, adesso sentite bene, sul sito di Radio Radicale ci sta tutto l'audio di questo convegno, ma quello di cui ringrazio appunto i redattori di Scarceranda è il commento che hanno fatto a questo convegno, di cui se voi ascolterete l'audio, quindi dal commento potrete capire, quindi come dicevo un convegno sull'edilizia carceraria, e il commento è questo: carceri dal volto umano? Un convegno della sparuta schiera garantista riduzionista italiana contrappone all'edilizia carceraria promossa dalla destra un'architettura umanizzante per le carceri. Grande assente la dinamite. E con questo dico tutto, anzi hanno detto tutto loro con questo commento. Se voi andrete ad ascoltare vi renderete conto, insomma, l'importante è costruire, dare appalti per appunto creare delle carceri dal volto umano. E sempre a proposito di Scarceranda, volevo leggervi un pezzo che potete trovare sulla Scarceranda di quest'anno, forse alcune l'avranno già letto, ma merita veramente, anche perché poi tra l'altro voglio sottolineare che come un'amica, conoscendo le mie tasche, mi ha detto: non c'è bisogno che quest'anno mi regali Scarceranda perché già ce n'ho una più grande. Ecco, io volevo precisare che Scarceranda non è solo un'agenda, anzi direi che veramente non lo è più un'agenda, perché nel senso che quello che è anche molto importante è un vero e proprio ricettacolo di articoli interessanti. Già ne abbiamo accennato, ci sta quello di Salvatore Ricciardi appunto sul perché non si fugge più dal carcere, e poi abbiamo letto anche delle poesie, e quindi vale sempre la pena, per cui nonostante le mie tasche siano al verde continuerò a avere questa consuetudine di regalare Scarceranda per Natale. E tra le varie, appunto, tra i vari articoli, lettere, poesie e quant'altro che possiamo trovare, quest'anno abbiamo una lettera di una maestra che si firma Fiordaliso, tra l'altro con un'immagine, appunto, uno pseudonimo, Emma Goldman, che era una anarcofemminista russa che è morta nel 1940, è un personaggio davvero molto interessante. E questa lettera, naturalmente ne leggerò solo dei tratti e quindi andrò un po' di qua e di là, e quindi andiamo ad ascoltare. Dice: sono una maestra e alcuni miei alunni sono nervosi, non sanno perché, oppure sono inspiegabilmente calmi, pensierosi, insomma sono cambiati, e quando stai pensando alle cause possibili del loro repentino cambiamento, ecco che arriva qualcuno, un loro parente. C'è sempre qualcuno che ha un genitore o un parente stretto in galera. Te ne accorgi dal loro nervosismo, dalle assenze cadenzate, prima ancora che un genitore o un parente stretto ti dica: maestra, le volevo dire che in questo periodo abbiamo un problema, e tu vigliaccamente speri sempre che ti dicano che non hanno i soldi per mandare il bimbo o la bimba in gita, ma purtroppo lo sai che non è così. Scrivo questo perché la condizione carceraria dei genitori dei miei alunni ricade pesantemente su di essi, come dire, le colpe dei padri ricadono sui figli e sulle figlie. Ma non sono i genitori a decidere che lo Stato, l'amministrazione del carcere, tratterà in questo modo i loro figli e le loro figlie. È una responsabilità che non compete ai detenuti e alle detenute. Per la consuetudine, di solito, i reati di cui questi genitori scontano le pene sono reati contro la proprietà: furti di auto, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Del carcere ho imparato è difficile liberarsi, come del raffreddore, si entra in un circuito che ti assorbe. Per questo mi riguarda ognuno, per quanto mi riguarda ognuno è padrone della propria vita e le responsabilità sono sempre individuali, ma è vero però che una condizione di deprivazione culturale, di disagio e non solo economico, ti rendono vulnerabile di fronte alla grande macchina della burocrazia e della giustizia. In questo momento quello che ci tengo a sottolineare è che quello che è terribile è come i familiari dei detenuti e delle detenute scontino anche loro la pena del loro congiunto. Non credo che il dolore educhi, non credo al mito dell'uomo forte, non credo a tutte quelle fesserie che enfatizzano la galera come palestra di vita. E mi fa schifo quella canzone che dice che non sei romano se non hai salito i tre scalini. E qui dice una frase che veramente l'ho sottolineata in rosso. La borghesia illuminata si è sempre divertita con i poveracci, cantando la loro fierezza e dignità, le regole d'onore della malavita, il senso profondo della miseria. Tutta enfasi letteraria d'accatto. Nessuno scambierebbe la propria vita sicura con quella di un detenuto, anche se fiero, dignitoso e non infame. Sono una maestra, lavoro in un quartiere periferico di una grande città. Uno di quei quartieri frutto del riassetto delle città per bene da parte delle agenzie immobiliari e delle giunte del razzismo democratico, che non solo mettono sempre più fuori dalla città chi non ha garanzie sociali, ma gli costruiscono interi quartieri intorno dove possono stare tutti insieme gli sfrattati, gli assegnatari di case popolari. Insieme agli occupanti gliele fanno occupare queste case, perché è meglio che ci vadano loro volontariamente piuttosto che esserci spediti dal comune. Fa meno brutto e il comune si toglie una grande responsabilità politica ed immagine. Sono una maestra e odio il carcere e tutto quello che esso provoca. Sia chiaro, non credo che il carcere sia un mondo a sé, dove la sofferenza e la sofferenza imposta appiattisce le differenze. Sono una donna e odio il carcere come categoria delle possibilità di esistenza. Non voglio avere nulla a che fare con stupratori o pedofili, ma il fatto che alcuni di essi siano in galera non mi fa affatto sentire più sicura. E ribadisce: odio il carcere e la retorica su di esso. Non credo serva la rieducazione del detenuto, che se vuole si rieduca da solo o da sola. Poi parla appunto di una bambina che appunto aveva i genitori in galera e appunto nonostante questo marchio di fabbrica e nonostante abiti in una casa piccolissima con 5 fratelli, sono comunque riusciti a farla reintegrare lei con altre 2 o 3 maestre. E aggiunge: non siamo state capaci di trovarle una casa più grande da occupare, ma siamo state in grado di provare compassione per chi continua a cantare, come fosse una cosa vera, che i veri romani sono tali perché hanno salito i 3 scalini di Regina Celi. Siamo sicuri che il padre della nostra alunna, romano, avrebbe fatto volentieri a meno di questa romanità. Siamo 3 maestre e una di noi odia il carcere consapevolmente, le altre 2 nei fatti. E siamo riuscite fino ad oggi a far star bene in classe la nostra alunna, perché abbiamo combattuto contro chi lo costruisce il carcere, sia materialmente che nella mente di tutti noi. Ognuno di noi sogna un'evasione definitiva per i nostri alunni, per le nostre alunne e per i loro familiari. L'evasione è la cultura, la possibilità di capire quello che ti circonda e di cambiarlo, almeno per i nostri alunni e alunne, e penso anche per i loro genitori detenuti. È per questo che da liberi abitano in quartieri senza cinema, con teatri costruiti non per loro, senza biblioteche, immersi nell'ignoranza e assediati dal disprezzo e dalla paura della gente per bene. Ma sempre di più evadono, si diplomano, vanno all'università, si costruiscono una vita decente dove vogliono, anche nel loro quartiere, dove hanno il diritto di vivere. Siamo testimoni e complici di queste evasioni organizzate e inesorabili. Poi conclude, dice: devo concludere queste righe, e le concludo con una dedica alla mia amica Snezzana, in galera da 3 anni. Il mandato di cattura è stato spiccato mentre lei aveva già un lavoro, aveva già cambiato la sua vita e i soldi del suo lavoro servivano, come anche i soldi dei furti, al sostentamento dei suoi figli, a farli andare a scuola ben vestiti, con tutto il materiale scolastico, a farli vivere meglio di quanto hanno vissuto lei e suo marito alla loro età. I suoi furti non l'hanno fatta diventare ricca. L'hanno fatta sopravvivere, lei e la sua famiglia, con dignità. I suoi figli e le sue figlie sono cresciute bene e, detto tra noi, tra l'altro, sono bellissimi. Non si è arricchita la mia amica, ma ha contribuito a dare lavoro a tante stimate figure della nostra società. Assistenti sociali, secondini, secondine, legali procuratori, legali magistrati, cancellieri. Se non ci fossero quelle come lei, e sono tante, si troverebbero con poco lavoro. Per questo forse la macchina giudiziaria non si è accorta che lei aveva cambiato faticosamente stile di vita e ha azzerato tutto per cose vecchie. Ma si sa, i reati contro la proprietà privata, soprattutto se al di sotto di alcune centinaia di euro, sono una minaccia per la sicurezza della società. Per lei il sindaco della sua città non ha stanziato dei soldi per la sua difesa, come è accaduto per quei minorenni che dopo aver violentato una ragazza hanno avuto questa tangibile prova di solidarietà dalle istituzioni. A lei non è stata data nessuna chance, nessuna speranza e nessuna pietà. Non si aiuta chi ruba portafogli il garantismo muore davanti a lei. Viviamo nel paese che non ha fatto processare De Lorenzo per il sangue infetto, ma a lei e a quelle come lei ha garantito processi, galere e segregazione, libertà per tutte e per tutti. Allora, le 4:20, 16:20, questa è sempre la conta, trasmissione contro il carcere. Dunque, noi tutti sappiamo che in Europa, in tutti i paesi d'Europa, è stata abolita la pena di morte, Italia compresa, anche se l'Italia mantiene quella sorta di morte differita che è l'ergastolo in generale e in particolare l'ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo è quello che non prevede nessuna possibilità di uscita, nemmeno in libertà condizionale dopo 26 anni come il carcere, l'ergastolo normale. Quindi è una sorta di pena di morte. Comunque, qui parliamo della pena di morte, quella proprio che si infligge, quella che sulla sedia elettrica o per fucilazione o per impiccagione o per dosi letali, che in molti paesi del mondo c'è ancora. Dunque, l'Europa però l'ha smesso. Questo fatto ci fa capire bene l'intreccio tra ideali e poi pratica reale dei paesi che abitiamo, queste nazioni europee che si dicono democratiche, si dicono civili e così via. Bene, quindi l'Europa ha abolito la pena di morte, in nessun paese è permessa la pena di morte. Negli Stati Uniti d'America c'è, lo sappiamo, la pena di morte, ci sono anche lì molte associazioni che si battono, tuttavia c'è ancora. Gli Stati Uniti d'America, quasi tutti gli stati, attualmente si usa l'iniezione letale per procurare la pena di morte. Bene, il materiale tossico che uccide la gente, però gli Stati Uniti d'America lo comprano dall'Europa. Ecco, quindi vedete la contraddizione. L'Europa ha fatto questo bel gesto sul piano, dei principi, no? C'è la pena di morte negli stati europei, però produciamo il sodio tiopentale, che sarebbe il pentotal, con il quale negli Stati Uniti d'America si pratica l'iniezione letale, quindi la pena di morte. È una bella contraddizione, eh? È come dire, questa ci dà proprio l'esatta rappresentazione, come fosse una radiografia degli stati cui siamo cittadini o sudditi, dice, poi vedremo, nel senso che non dovremo tanto credere alle chiacchiere che si dicono, no? Parole come democrazia, perché poi in realtà è come se tu offrissi la pistola con cui uno viene ucciso, può darsi pure che dici di essere contro la pena di morte, però hai in qualche modo partecipato. Bene, questo sodio diopentale, che sarebbe il pento, tal col quale appunto negli Stati Uniti d'America si eseguono la gran parte delle condanne a morte tramite iniezione letale, viene fabbricato da una ditta che prima stava nell'Ohio, stava negli Stati Uniti d'America, e poi dopo è stata trasferita negli Stati, nella Gran Bretagna, e quindi quasi tutto, diciamo, il pentotal esportato negli Stati Uniti d'America per fare l'iniezione letale veniva proprio prodotto in Gran Bretagna da una ditta così. E lo scorso fine novembre, il 28, quindi è recente la notizia, il 28 novembre scorso, il governo inglese, però tramite il ministro degli esteri, ha detto che questa cosa non va bene. Beh, c'è un governo conservatore in Inghilterra, nemmeno, però è su un piano dei principi, ha detto non è, cioè qualcuno, le associazioni sono battute, ha detto non è possibile che un paese che è contro la pena di morte come l'Inghilterra però poi esporti il veleno con cui viene uccisa la gente negli Stati Uniti d'America, e quindi ha messo un controllo, ha chiesto addirittura di mettere un controllo nell'Inghilterra ma anche in tutti gli stati europei, perché appunto non si esportassero, visto che siamo contro la pena di morte, si esportassero strumenti atti a provocarla. Se no questa cosa fa ridere un po' anche i sassi, per cui si sono resi conto dell'associa. Bene, in questo meccanismo del fatto che il ministro inglese ha chiesto agli Stati europei di controllare, cioè l'Unione Europea che controllasse in tutti gli Stati europei l'esportazione di questo pentotal, perché viene anche, è anche un anestetico, no? Viene anche usato però in piccole dosi, quindi un controllo in modo che venisse esportato soltanto per questioni di carattere anestetico e non per fare eseguire le condanne a morte. A quel punto è venuto fuori che questa ditta inglese in realtà aveva dislocato le proprie fabbriche qui da noi in Italia, quindi noi a Liscate si trova questa fabbrica che produce il pentotal, e che poi in gran parte, almeno fino a ieri, non sappiamo se questo richiamo permetterà all'Unione Europea di bloccare queste esportazioni, vedete che esportiamo cose molto civili, però appunto è venuto fuori che questa fabbrica in Italia produce la gran parte di questo pentotal per uccidere, per l'omicidio di Stato in vigore in America. E a quel punto adesso quindi è scoppiato, diciamo, il problema. Ora, insomma, l'altra volta quando abbiamo fatto stiamo facendo quel pezzo di pillole di storia, diciamo, della nascita del carcerario, della struttura punitiva, e qui in Europa appunto abbiamo visto come una regione italiana, il Granducato di Toscana, è stato il primo paese al mondo ad abolire la pena di morte, quindi tra i tanti difetti possiamo vantare questo merito, perlomeno una regione italiana. Bene, e allora chiaramente però era abbastanza assurdo quindi che invece proprio lì vicino, insomma, da quelle parti si producessero gli strumenti per la morte. Vabbè, insomma, adesso la vicenda è aperta, semplicemente aperta, non ne parlano molti giornali, ne parla nessuno, perché se tocchi l'industria questo produce ricchezza, produce capitale, produce profitto, ma te pare che diranno, ma ci mancherebbe altro, mo vogliamo depotenziare la struttura industriale italiana? Diranno così, no? I cialtroni, e quindi non è che ne ha parlato molta gente, cioè si è aperto questo... come dire, questo caso del fatto che in Italia produciamo la gran parte del sodio tiopentale, si chiama, e sarebbe il pentotal, che gli Stati Uniti comprano per uccidere le persone, per praticare la pena di morte, l'omicidio di Stato. Bene, non so, ciascuno può dire la propria, può scrivere, insomma, al ministro dell'industria, al governo italiano, perché la cosa fa abbastanza vergognare di appartenere a questo paese. special smile. Smile in this crowd. I want your special smile. A smile in this crowd. Mancano 10 minuti alle 16, un'ultima notizia. Si è scatenato un veramente indegno e anche, come dire, poco sensato bagarre. Si è scatenata proprio questa bagarre su questo chiamato, questa sorta di mini indulto, che è chiamato anche il disegno di legge Alfano, che entrerà in vigore domani, il 16 dicembre. Ricordiamo brevemente, ne abbiamo parlato più volte, se ne parlava dal gennaio scorso, è stato approvato a fine di novembre, qualche giorno fa. Ebbene, questo disegno di legge diceva che coloro che avevano ancora 12 mesi di carcere, un residuo pena di 12 mesi, potevano scontarlo agli arresti, al proprio domicilio, come arresti domiciliari, più che altro detenzione domiciliare. Vabbè, e quindi all'inizio fecero questo provvedimento per allentare un po', dovevano uscire circa 10.000 soggetti, poi ovviamente hanno messo le incompatibilità, cioè chi è colpevole di questo reato non esce, chi questo reato nemmeno e così via. Alla fine pare che ne usciranno soltanto 4-5 mila, ne potranno uscire. Il problema è che ne usciranno in maniera molto graduale, perché appunto mentre inizialmente la proposta che è partita dal basso, dalle associazioni, proponeva di fare un meccanismo automatico, cioè chi aveva meno di 12 mesi di carcere usciva direttamente, quindi che la matricola del carcere metteva in moto la pratica. Invece la modifica a questo disegno di legge è stato che dovranno passare attraverso il Tribunale di Sorveglianza, quindi si allunga molto, uno dovrà fare l'istanza, poi avere consideriamo che le udienze al Tribunale di Sorveglianza sono super affollate e quindi ne usciranno gradualmente pochi. E però, e quindi per quello è del tutto insensato che sia passata, che si sia scatenata questa sorta di aiuto, escono tutti i criminali, a parte che chi ha meno di 12 mesi da passare in carcere entro l'anno esce, ovviamente, no? Quindi c'è chi ha 3 mesi, 4 mesi, 2 mesi, quindi tra qualche giorno ce li avremo in mezzo a noi. Quindi non si capisce, non è che dice fanno uscire quelli che hanno a fare 30 anni di galera. Quindi questi allarmi sono veramente ingiustificati e per cui molto sporchi, squallidi. Purtroppo ne parla la scatenata, questo giornalaccio, il Fatto Quotidiano, che è veramente un brutto giornale, strano che lo compri la gente, ma è veramente un brutto giornale, che con la scusa, ma è veramente una scusa, di voler condannare i ricchi potenti, non mandando in galera i ricchi potenti, in realtà poi concretamente opera perché ci vadano i soldi disgraziati, poveracci, quelli che poi in realtà popolano le galere. E beh, si è scatenato addirittura facendo un'intervista ai tassinari, ai tassisti, dicendo: se fanno uscire tutti questi criminali non andremo più a votare. Ecco, sarebbe bastato ricordare che tanto fra qualche mese questi sarebbero usciti lo stesso, che senso ha? Quindi vabbè, poi lo si sono intervistati i commercianti, la Guardia Padana addirittura, come se fosse un soggetto reale, vabbè. Insomma, invece molte altre voci, come abbiamo letto, sono veramente molto preoccupate, perché non sarà nessun allentamento della pressione del sovraffollamento carcerario, perché appunto ci hanno gradualmente, nel frattempo ne entreranno altri. Ricordate che la media di ingressi in carcere sono 800 al mese di aumento, e quindi praticamente rimarrà intorno ai 70.000, e poi finita questo provvedimento schizzerà in alto di nuovo la presenza. Le previsioni del Censis sono che si arriverà a 100.000 nel 2012, per cui siamo veramente alla devastazione. Tutto questo però permette che cosa? No, il fatto di dire non devono uscire, oppure in realtà mettere in moto meccanismi che non facciano uscire, che non facciano allentare il sovraffollamento, fa invece aumentare la pressione per la costruzione delle carceri, che è, come abbiamo letto poco fa, in realtà il grande business di questi tempi. Grandi progetti di opere pubbliche non se ne fanno perché sono state in qualche modo bloccate, perché creano problemi, devastazione ambientale. Invece costruire carceri in realtà purtroppo in questo paese nessuno si opporrebbe e si oppone in realtà quando si tratta di costruire un carcere. Insomma, dicono spostatelo più in là, un po' in periferia, ma carceri nuovi si costruiscono. Le carceri nuovi sono un buon sistema per lucrare, perché sono, sapete, il carcere deve essere costruito da ditte specializzate, quindi non si può fare la gara libera di appalto. Vengono chiamate delle ditte specializzate e tra quelle due o tre si sceglie, per cui è possibile, diciamo che è certo, l'imbroglio, la pastetta, il traffico. In più il costo dei materiali del carcere, siccome i capitolati d'appalto dicono che devono essere materiali robusti, resistenti, a prova di evasione, ovviamente ci si spendono ancora più soldi. Quindi è il grosso business. Credo che una ditta nel costruire un'opera pubblica e nel costruire un carcere, nel secondo caso, nel carcere guadagni 4-5 volte di più che non nel costruire una qualsiasi opera pubblica. Per cui è chiaro che sono tutti buttati. Poi c'è la ditta che costruisce il carcere, c'è la ditta che mette in opera i sistemi di sicurezza, anche questi costosissimi, c'è la ditta che produce l'arredamento del carcere, quindi c'è un bel sistema di guadagno. E quindi questa pressione sul sovraffollamento farà partire, darà una spinta che si mette in moto il progetto di costruzione di carcere, che non permetterà a breve tempo di avere più spazio per quei carcerati inseriti in queste celle o sovraffollate, ma sì, permetterà invece sì di fare buoni profitti, perché ci vogliono molti anni per portarlo a termine un carcere, quindi chiaramente, insomma, si vedrà fra 3-4 anni un carcere nuovo. Insomma, a parte che poi non è questa la soluzione, non è fare disseminare carceri dappertutto, credo non solo per noi ma per tutte le persone sensate. E questo è il dramma che è successo. Invece di pensare a problemi, diciamo, reali, si sta facendo questa bagarre, questa polemica intorno al fatto che dice escono tutti i criminali dal carcere, cosa tra l'altro assolutamente non vera. Siamo in chiusura, mancano 2 minuti alle 16. Vi diamo intanto appunto gli aggiornamenti che ci hanno dato gli avvocati sulla situazione delle 23 persone fermate ieri durante le manifestazioni. Abbiamo detto ieri, la notte scorsa, l'anno trascorso, nelle celle della questura di Roma. Stamattina, in tarda mattinata, intorno all'ora di pranzo, sono stati trasferiti al carcere di Regina Coeli. Sono 23 persone. Gli avvocati dicono che nel loro, diciamo, il processo per direttissima, che in un primo tempo era stato fissato per domani, invece slitterà a dopodomani, perché il procuratore ha chiesto tempo per analizzare la situazione di ciascuno di questi 23 persone. L'ultima lancio ANSA parla di 26 persone, ma noi sappiamo che sono state 23, anche perché 26 indagati, ma i minorenni sono usciti dal carcere, non sono in carcere. Quindi ci sono appunto 23 in carcere. Noi mandiamo a tutti loro e tutte loro un saluto. Probabilmente sono in isolamento, appunto, abbiamo detto, in isolamento giudiziario, però il carcere riesce a far viaggiare, far veicolare, far arrivare i saluti, gli abbracci e gli auguri di reggere questa situazione difficile che si trovano ad affrontare, perché è nella convinzione che c'è tutto il movimento, tutti i compagni, le compagne, le persone, tutte stanno dalla loro parte, cercano e si batteranno per una loro libertà. feel.